Testimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Pinsimonio, in cui andremo ad intingere 5 parole legate al tema della distinzione, che sono discernere, ravvisare, scevrare, vagliare e discriminare. Allora, cominciamo con discernere, che significa vedere distintamente con la vista o con l'intelletto, distinguendo qualcosa da altri oggetti circostanti o vicini. Più comunemente significa distinguere nel senso di separare, scegliere o selezionare, come discernere il bene dal male o discernere il vero dal falso. O significa anche distinguere e riconoscere insieme, altrimenti in senso antico significava giudicare. Continuiamo con ravvisare, che significa riconoscere dal viso e per estensione alla figura, all'aspetto o a qualche indizio esteriore. Era così buio che non riuscivo a ravvisarlo. Per estensione significa riconoscere o individuare in un'opera, un'azione, un fatto o una situazione uno o più elementi caratterizzanti, un dipinto in cui si possono ravvisare influssi picassiani. In senso figurato, antico o letterale, ravvisare significa anche pensare, giudicare o ritenere opportuno. Poi abbiamo sceverare o anticamente scevrare, che come discernere significa letteralmente separare o distinguere. Continuiamo con vagliare, che significa, nella sua prima accezione, far passare attraverso un vaglio una massa incoerente, granulare o frammentaria, per separare la parte utile dai corpi estranei o per dividere degli elementi da degli altri. Vagliare il grano per separarlo dalla pula. Da qui, in senso figurato, significa considerare e valutare attentamente, sottoporre a minuto esame o a rigorosa critica, vagliare una proposta. Terminiamo con discriminare, che significa innanzitutto distinguere, separare, fare una differenza. La storia non può discriminare i fatti in buoni e cattivi. Da qui ne viene l'accezione che è la più usata al giorno d'oggi, che il Treccani descrive così. Discriminare significa adottare in singoli casi o verso singole persone o gruppi di persone un comportamento diverso da quello stabilito per la generalità, o che comunque rivela una disparità di giudizio e di trattamento. Poi in senso giuridico intende il togliere il carattere di illiceità a un fatto che costituirebbe reato o diminuire la responsabilità del colpevole. Infine, in senso generale, significa non applicare, per particolari motivi e a singoli individui, i provvedimenti o le sanzioni previsti contro la categoria a cui essi appartengono. Qui si conclude questa puntata del Pinsimonio, che vi ricordiamo non discrimina nessuna parola del vocabolario, e vi auguro un buon proseguimento su Radio Zanardi. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.